Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Anche oggi parliamo di musica, di musicisti, di grandi musicisti. Questa volta stiamo parlando di un uomo per cui non possiamo prescindere dalla parola anima, perché è un musicista, un cantautore, era, ahimè, che metteva veramente l'anima al centro delle sue opere. E lo fanno tutti, però in questo caso in qualche modo si va oltre. Oggi vi voglio parlare di Jeff Buckley. Chi lo conosce sa che, insomma, le sue canzoni sono così toccanti che bisogna veramente parlare di emozioni forti. E sentiamo cosa ne pensa anche Fabio Di Girolamo, che è un nostro ascoltatore che ci ha chiesto, tra gli altri, di parlare di Jeff Buckley. Buongiorno Fabio. Ciao Enrico. Senti, perché Jeff Buckley? E ti trovi giusto che io abbia detto anima mettendola al centro? Ma credo che tu abbia colto proprio il significato più intenso della sua produzione artistica. Comunque, come ti avevo scritto, pensando a Jeff Buckley, mi viene sempre in mente quel gioco in cui ci si chiede cosa porteresti su un'isola deserta, no? Potendo scegliere tra un solo libro, un solo film, un disco e così via. Ebbene, sul disco non ho alcun dubbio, Grace di Jeff Buckley. Cosa aveva Jeff Buckley più degli altri? Ma io poi mi sono interessato molto anche alla sua vita, leggendo i forum, e quello che ho notato, come tutti coloro che lo hanno ascoltato, siano rimasti profondamente toccati, alcuni quasi sconvolti dalla sua voce, e da questa intensità. Non ricordo chi addirittura la definì la voce rubata ad un angelo, quindi è qualcosa di veramente particolare. Addirittura anche lo stesso David Bowie ha detto che tra i 10 dischi da portare con sé c'era Grace. Grace dice, ce l'ha detto una leggenda che ha vissuto 4 vite da artista, da cantante come lui, ci crediamo. Grazie Fabio e buona puntata anche a te. Grazie mille Enrico, piacere di averti conosciuto. A presto. Eh sì, Jeff Buckley è veramente un musicista particolare. Intanto in realtà ha fatto un solo album, il mitico Grace, e poi è morto a soli 30 anni, eppure è considerato uno dei più grandi musicisti contemporanei. Anche lui, come tanti che sono morti giovani, era destinato sicuramente a un avvenire ben più luminoso. È tuttora un faro per molti artisti arrivati dopo di lui, o prima o durante, e lo stesso Bowie, ne parlavamo prima, ha nominato Grace tra i 10 dischi più importanti della sua vita. Forse addirittura il fatto di aver fatto un solo album lo ha in qualche modo cristallizzato in un unico ricordo perfetto. Ma è vero anche che la gente vedeva veramente in lui qualcosa di potente, di profondo. Sentiamo proprio dalla voce di Jeff Buckley cos'era la musica per lui. Mi sembra come se sia la cosa più vicina alla mia anima. La musica ti entra nel sangue così velocemente, senza una ragione particolare. Puoi chiudere il tuo cuore o puoi dormire con gli occhi chiusi, ma non potrai mai chiudere le tue orecchie. Eh sì, non si possono chiudere le orecchie quando si ascolta Jeff Buckley, intanto perché ha scritto canzoni bellissime, poi aveva una voce incredibile, copriva quasi 4 ottave, aveva un timbro purissimo. Ce lo racconta anche Gary Lucas, è un chitarrista col quale io ho avuto il piacere di suonare più di una volta, e che invece ha lavorato soprattutto con Jeff Buckley, ha scritto due delle sue canzoni più famose, Grace e Mojo Pin. Aveva la voce di un angelo. Sembrava un regalo di Dio. Non ho mai sentito una tale estensione e una tale purezza. Quando metteva in fila tutte le note, potevi davvero percepire una pienezza totale. La musica di Buckley veniva dalla sua anima, anche un po' però dal suo DNA, perché il padre era stato a sua volta musicista, un grande musicista, si chiamava Tim Buckley, e alla fine degli anni 60 aveva avuto un buon periodo di notorietà come folk singer. Anche la madre, Mary Guibert, amava la musica, suonava il pianoforte, I due si incontrano a scuola, si sposano giovanissimi, ma quando Mary rimane incinta le cose iniziano già a andare male. Quando Jeff Buckley nasce il 17 novembre del 66 in California, i genitori sono già separati. Il padre e il figlio si vedranno solo una volta, quando il bambino ha 8 anni. Chiaramente, insomma, queste sono cose che segnano nella vita. E peraltro, poco dopo, Tim Buckley muore di overdose nel 75 a soli 28 anni. E aveva dedicato una canzone al figlio e alla moglie, I Never Asked to Be Your Mountain, non ho mai chiesto di essere la tua montagna, quindi, come dire, un declinare le proprie responsabilità di padre e di marito già alla fonte. Solo dopo la sua morte, Jeff decide di cambiare il suo nome, di prendere il cognome del padre biologico. Long time ago, when I was a little kid. Tanto tempo fa, quando ero piccolo, mia madre si sedette accanto a me sul letto e mise su un disco. Credo fosse la prima volta che sentii un disco con la voce di mio padre. Ma credo avessi circa 6 anni. Six. Mary rimane sola con il bambino, non ha una vita facile, è costretta a girare per la California per trovare lavoro. Poi si risposa con un certo Ron Moorhead, dal quale ha un secondo figlio. Questa sarà per Jeff la sua vera famiglia, infatti per anni porta il cognome del patrigno e si chiama Jeff Scott Moorhead. E i primi anni sono veramente difficili. In un'intervista Buckley addirittura scherzò dicendo che facevano una vita in roulotte come spazzatura senza radici. Come ci tiene a dire la madre, però era una frase un po' a uso e consumo dei giornalisti. Somehow people think that we lived in a trailer park. Per qualche ragione, la gente pensa che vivessimo in un parcheggio per roulotte e che fossimo spazzatura bianca. E credo persino che sia stato Jeff a dire una cosa del genere in un'intervista. Qualcosa che li ha portati a crederlo. È vero che ci siamo trasferiti molte volte, perché come mamma single e con il mercato del lavoro in continuo cambiamento, ci spostavamo sempre per migliorare la nostra condizione. Ma la famiglia si mobilitò tutta per comprare a Jeff la sua prima chitarra. La nonna, lo zio e la chitarra che gli regalammo per Natale fu il suo orgoglio e la sua gioia. His pride and joy. E Jeff inizia a suonare attorno ai 5 anni, fin da quando è piccolo è abituato a respirare musica. Insomma, la madre, peraltro, è il suo primo esempio. Sometimes even if I was just tired, I would sit down and play. A volte, anche se ero stanca, mi sedevo a suonare. E tutte le volte che suonavo, i ragazzi venivano nella stanza dove c'era il piano. Amavano ascoltare, chiedevano sempre nuove canzoni. Ogni volta che mi alzavo mi dicevano: «No, mamma, resta, suonane un'altra!» E di solito era Jeff che diceva: «Suona quella che sembra pioggia, suona quella... il valzer!» A quelle che gli piacevano di più dava un nome speciale, che fossero di Beethoven, Rachmaninoff o qualcun altro. Ma Mary non si limita a suonare, perché spesso canta coi figli, visto che è una professionista che non fa le cose per caso, e insieme ai ragazzi comincia a inventare armonie anche complesse. Insomma, la casa diventa piena di musica e lui apprende le prime nozioni musicali e, tra l'altro, soprattutto grazie alla madre, la voce comincia a scoprire determinati virtuosismi. È un insegnamento che sarà alla base della sua musica. Insomma, non è un caso che a 13 anni Jeff Buckley sappia già molto bene quale sarà il suo destino. Avevo forse 13 o 14 anni quando feci la mia prima esibizione in un club e capii che sì, mi piaceva fare questa cosa, mi piace essere qui, cioè c'è una gran puzza, sono tutti pazzi. Non devo andare a scuola, cioè ci devo andare, ma non ci andrò. Insomma, quel genere di cose. I have to, but I won't. That sort of thing. Il falco e il gabbiano. Jeff Buckley è un giovane ragazzo californiano, uno dei tanti che crescono negli Stati Uniti degli anni Ottanta. Va a scuola, esce con gli amici, ha una famiglia, anche se è un po' malandata, soprattutto in partenza, però ha qualcosa in più degli altri, ha la musica e ha un sogno, quello di diventare un vero musicista come il padre, il cantautore folk Tim Buckley. Anche la madre Mary capisce che a quel figlio non si può imporre un destino diverso. A 17 anni e mezzo, dopo il diploma, decise che non sarebbe andato al college o a fare qualcosa di simile. Aveva quest'idea che avrebbe cercato di diventare un musicista e quindi non avrebbe perso tempo a cercare di sviluppare qualche altro talento o un piano alternativo. Voleva diventare solo un musicista. E così Jeff, per inseguire il suo sogno, si trasferisce a nord di Hollywood e frequenta il Musician Institute, ma regge solo un anno, poi abbandona perché considera la scuola un po' una perdita di tempo, e i seguenti 6 anni li trascorre lavorando di giorno in un hotel per sbarcare il lunario e la notte suonando nei vari gruppi della zona. Non ha pregiudizi, quindi passa dal reggae al jazz al rock, in realtà una passione ce l'ha. Uno dei componenti dei gruppi con cui suona in quel periodo, Catherine Grimm, ci racconta quale fosse il gruppo di riferimento di Jeff. Una delle sue band preferite erano i Led Zeppelin. Ci raccontava di quando guidava il furgoncino del fidanzato di sua madre con dei grandi speaker montati sul retro e mentre andava in giro li metteva a tutto volume. A furia di suonare nei locali di Los Angeles, Jeff diventa sempre più bravo, le sue capacità non passano inosservate. In quel periodo conosce Michael Close, che è un produttore musicale che rimane molto colpito da Jeff perché è bravo, ma soprattutto perché ha quella qualità che serve per fare successo, essere diverso da tutti gli altri. Il mio primo incontro con Jeff fu probabilmente intorno al 1988, quando un membro di una band mi disse che in città c'era un nuovo bravo chitarrista e che forse avremmo potuto usare lui per qualche prova. Così arrivò questo ragazzo che sembrava una specie di bohemien, forse della fine degli anni 60, uno che poteva essere il genere di musicista di locali come il CBGB. Non aveva per niente l'aria di uno di quei chitarristi che andavano in quel momento a Los Angeles, ma nel momento in cui mise il cavo alla sua chitarra, si animò tutto. Era il tipo quieto e riservato, ma quando metteva la spina, non smetteva più. E così nel 1990 Jeff decide di tentare la fortuna a New York. In una fredda giornata di febbraio vola verso la East Coast. Arrivai a New York nel 1990. Vendetti tutto quello che avevo e lasciai Los Angeles. Avevo vissuto nel sud della California la maggior parte della mia vita, ma non mi ero mai sentito a mio agio. Volevo solo lavorare, ecco tutto. Così mi misi a cercare qualsiasi genere di locale nel Lower East Side e in qualsiasi altra parte di New York. E iniziai a suonare. Qualsiasi cosa. Avevo questa idea, un po' fuori moda, di essere un cantante. Però il piano non riesce subito. Dopo qualche tempo torna in California e qui ha un incontro importante. Herb Cohen, che era il manager del padre, incide qualche pezzo per un demo, il risultato non ha il successo sperato, però proprio in quanto figlio di Tim Buckley viene invitato a partecipare a un concerto che viene organizzato in suo onore a New York, Greetings from Tim Buckley. Susan Feldman, nello staff che si occupò dell'organizzazione, ricorda ancora lo stupore di quando scoprirono che Tim Buckley aveva un figlio. Durante il lavoro di preparazione e di ricerca, scoprimo che c'era un figlio che si chiamava Jeff ed era anche lui un musicista. Non gli piaceva essere paragonato al padre, ma credo che anche in quell'occasione iniziò ad abbracciare l'idea che una parte di Tim fosse in lui. È una grande occasione, Jeff la mette a segno e alla fine del concerto, tra tanti ospiti illustri, la star è lui. I giornalisti fanno la coda per intervistarlo e non solo loro. Secondo Hal Wilner, che era l'ideatore dell'evento, i produttori facevano la fila per parlare con lui e tutti gli artisti del momento lo riconobbero come uno di loro. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando una figura particolare nel mondo musicale, Jeff Buckley, un musicista scomparso a soli 30 anni, annegato nel Mississippi, un musicista che ha prodotto solo un album, Grace, un album che però è nel cuore di tutti e molti lo ritengono un album fondamentale, anche perché lui era diverso da tutti. E ricordiamoci che siamo in pieno degli anni 90, gli stessi anni in cui dall'altra parte degli Stati Uniti si sviluppa il grunge con i Nirvana, più tardi con i Soundgarden, poi i Foo Fighters, i Pearl Jam. La musica di Seattle era dura, era sporca, era disperata, ideale proseguimento del nichilismo punk, era la cifra stilistica di tutte le produzioni di quel periodo. Ed ecco invece che da New York arriva questo ragazzo con questa faccia angelica, con una voce un po' rinascimentale, che non parla di droga, di depressione, ma parla di emozioni appena sussurrate, di amori mutevoli. Insomma, è una novità, va controcorrente. Ascoltare Jeff, che con la tranquillità di chi non si preoccupa di quello che stanno pensando gli altri e segue una sua poetica così particolare, è veramente una cosa originale, un po' anacronistica nel panorama musicale di quel periodo. Ce lo racconta anche un suo amico d'infanzia. Non avevo mai sentito nessuno cantare in quel modo, da tempo. Perché quando eravamo piccoli, le rock band cercavano di suonare e di cantare al loro meglio. Ma poi, negli anni 90, sembrò che cantare bene fosse diventata una cosa da sfigati. Ecco, la cosa bella di Jeff Buckley è che a lui non importa nulla di quello che la gente pensa di lui. Per lui cantare qualcosa di così radicato dentro all'anima che può solo far uscire le parole e lasciare espandersi nell'aria, nient'altro. E per questo quando ottiene finalmente uno spazio in uno storico locale di New York, il Shin A, nell'East Village, è felice di esibirsi anche davanti a un piccolo pubblico, oppure di essere libero di fare quello che vuole. Questo locale è un po' come lui, è un locale dove i tavoli vengono addossati al muro quando c'è un'esibizione, la gente ascolta l'artista magari con in mano una bella birra scura, e in breve tempo i suoi piccoli concerti del lunedì attirano sempre più gente, arrivano i produttori musicali e arriva il primo contratto, perché tutti gliene offrono uno, e alla fine tra le tante etichette discografiche lui sceglie la Columbia, oggi Sony. Sentite per quali ragioni, che sono ragioni tipiche del personaggio. Ci sono ragioni romantiche, ragioni emotive per le quali sono andato con la Sony, cioè con la Columbia. Quando vai lì, la prima cosa che vedi appesa a un muro è Bob Dylan. Bellissimo, come sempre. 30 centimetri più in là c'è Miles, ancora più in là c'è Monk. E anche se proprio quell'azienda non c'è più, non si sfugge alle radici da cui viene quell'azienda. But there's no escaping the roots of that company. Il primo EP che Buckley pubblica nel 93 con la Columbia è proprio registrato al Shin E, si intitola Live al Shin E, e in quel periodo Buckley fa molte scoperte musicali che diventano preziosissime per lui. I suoi gusti vanno da Edith Piaf, Elton John, Leonard Cohen, fino ad arrivare al cantante pakistano Nusrat Fateh Ali Khan, per il quale nutre una vera e propria venerazione. Nusrat è il mio Elvis, il mio uomo. Lo ascolto tutti i giorni, so tutto di lui. E naturalmente ammirare un cantante pakistano in qualche modo ti amplia gli orizzonti, e forse è proprio questa poliedricità nei gusti musicali che rende la produzione di Buckley così diversa dalle altre. Allo Shin E canta, non so, le cover di grandi pezzi, diversi tra loro, da quelli degli Smiths a Nina Simone a Elton John, conquista il pubblico. Anche il disco registrato nel locale, appena pubblicato con la Columbia, peraltro, comincia a farsi strada, un discreto successo, esce un po' dalla nicchia, e lui decide di sostenerlo intraprendendo un tour sia negli Stati Uniti che in Europa. Naturalmente un personaggio del genere riscuote più successo proprio in Europa che in patria, e grazie all'entusiasmo degli europei lui si sente anche più sicuro rispetto alla sua musica. Si rende conto che le decine di serate trascorse a cantare al Shin E gli hanno regalato una preparazione live molto solida, e sul palcoscenico comincia a saperci fare. La preparazione si rivela utilissima. Il suo chitarrista Michael Tai, che suona con lui nella maggior parte di questi concerti, ce lo spiega anche molto bene. Jeff si sentiva molto a suo agio durante i tour, spostandosi da un luogo all'altro ed esibendosi ogni sera. Per lui il palcoscenico era una specie di casa dove si combinavano gli elementi che lo aiutavano a restare in equilibrio. Quando Jeff torna negli Stati Uniti, si sente finalmente pronto a mettere in cantiere il suo primo vero album e intanto trova le persone giuste per la band. Oltre a Michael Tye, il chitarrista, c'è Mick Grondahl al basso, il batterista Matt Johnson, e poi riprende in mano il materiale che aveva composto assieme all'amico musicista, quello di cui vi ho parlato prima, col quale ho avuto il piacere e l'onore di suonare, ovviamente da Red Ronnie, perché è un po' lì che ci si incontra tutti, Gary Lucas. E le due canzoni di Gary Lucas che lui riprende a riarrangiare sono Mojo Pin e soprattutto Grace. It was the kind of collaboration. Fu quel tipo di collaborazione che uno si sogna. Aveva l'abitudine di cantare solo alcuni versi qui e là, quasi come se non volesse rivelare, sai com'è, i suoi piani, e aspettare fino all'ultimo minuto. A fine agosto del 94 Jeff pubblica l'album Grace, che contiene 7 canzoni originali più 3 cover: Lila Quines, un brano reso famoso da Nina Simone, Corpus Christi Carlo, una canzone sacra scritta da Benjamin Britten, e una canzone di Leonard Cohen, Alleluia. È forse una delle più belle canzoni di sempre, la rivista Rolling Stones la mette tra le canzoni più belle di sempre, e forse questa è una delle migliori cover mai fatte. Il disco non esplode, ma a poco si conquista una solida fama. Diventa per molti uno degli album di riferimento. Perfino Bob Dylan, che non è uno molto generoso coi suoi colleghi, considera Jeff Buckley uno dei maggiori cantautori del decennio, forse perché tanto è morto, quindi. Però Bob Dylan in qualche modo gli dà un imprimatur importante. Per tutti i mesi seguenti la band è in concerto in Europa e partecipa anche a grandi eventi come il celebre festival di Glastonbury in Inghilterra, e suonano anche al Bataclan a Parigi, locale che era già mitico prima degli eventi tragici degli ultimi tempi. Ma comunque, secondo la madre Mary, alla fine questa vita nomade comincia a diventare faticosa perfino per lui. Coming off that long, arduous, never-ending tour. Uscendo da quel lungo, difficile, infinito tour, Jeff ebbe bisogno di calmarsi, di tirare i remi in barca e fare mente locale su quello che era successo fin lì. Aveva bisogno di valutare il suo lavoro, la sua vita personale e la sua vita musicale, perché sappiamo che in quel periodo stava anche valutando di intraprendere una nuova direzione. Intanto sono trascorsi il 95 e il 96 e Jeff decide di fermarsi, di pensare al nuovo album che vorrebbe intitolare My Sweetheart Drunk. Nel 97, dopo aver collaborato con Patti Smith, lui conosce il produttore Tom Verlaine, il leader del gruppo dei Television, quindi di area punk, diciamo, anche se punk raffinatissimo. Inizia a lavorare con lui al nuovo album, però non è soddisfatto dei risultati, forse non ha più neanche tanta voglia di rimanere a New York, si trasferisce a Memphis con l'idea di continuare le registrazioni negli studi, nei famosi studi di Isley McCann Recording, dove incidono molti musicisti del momento come i White Stripes, i Wilco, Cat Power. Cambia anche il produttore. Dopo Tom Verlaine arriva Andy Wallace, con cui ha prodotto Grace. Le cose cominciano a funzionare, lui richiama il resto della band che era a New York, li avverte che presto dovranno tornare per le prove. Il suo tono di voce è allegro, positivo e felice, e Jeff e la band si danno appuntamento a Memphis per il 29 maggio. Quella sera Jeff si trova in macchina col suo amico Keith Foti e si stanno dirigendo verso gli studi dove hanno appuntamento con la band in arrivo. Avevamo una chitarra e tutto quello che eravamo riusciti ad afferrare. Mi pare che ci fosse anche un amplificatore o qualcosa del genere. Ci infilammo nel furgoncino e ci avviammo verso lo studio per fare le prove e suonare. Ma non riuscimmo a trovare la strada, non riuscimmo a trovare quel cazzo di posto. Così lui disse: perché non andiamo giù al fiume? E io risposi: ok, fico. Avevamo con noi la radio e la chitarra e andammo giù per restare un po' in pace a suonare. play. La serata è magica, immaginate una strada che si srotola come un nastro accanto al Mississippi col sole che sta iniziando a calare e con i raggi che accarezzano la superficie dell'acqua. Jeff e Foti si fermano e fanno il bagno, portano una grossa radio con loro con la musica che inizia a uscire dagli speaker e Jeff decide di immergersi ancora gli stivali e il vestito addosso. A un certo punto arriva un'onda più grossa. L'amico si gira per andare a salvare la radio, per impedire che si bagni, il tempo di metterla in salvo, e quando si gira Jeff Buckley non c'è più. Il fiume scorre ancora tranquillo, lui è lontano, è stato trascinato giù forse dalla stessa onda provocata da un battello in lontananza che ha messo in pericolo la radio. Foti chiama subito i soccorsi, non c'è niente da fare. Il corpo di Jeff riaffiora solo 5 giorni dopo, il 4 giugno del 97. E Jeff ha 30 anni, il fiume gli ha portato via un futuro che ognuno di noi avrebbe tanto voluto ascoltare. Colpi d'ala che hanno lasciato il segno nella musica, purtroppo colpi d'ala isolati come nel caso di Jeff Buckley, che ha visto tutti i suoi sogni e i suoi progetti sparire dentro al Mississippi. Ci sono storie spesso sconosciute di persone che hanno saputo volare in alto e fare cose che hanno lasciato il segno, storie di chi ha riuscito, di chi ha avuto cadute e risalite, perché ognuno di noi può rischiare di cadere, ma può anche darlo quel colpo d'ala che ti riporta in alto. Se volete mandarci dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete a ilfalcoilgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina, venite a trovarmi, a trovarci sui miei sui nostri social, Facebook, Twitter, insomma, se volete sapete dove sono. Ciao, a domani.